E il delirio mi prese di nuovo, mi trasformò, stancata e ebete, in un largo pozzo di paura. Mi chiamò coi suoi stendardi bianchi e violenti, mi spinse alla porta della follia, mi rovinò per quell'intera durata, e quel giorno intero mi stese dispettosa a terra, incapace di muovere, stanca all'alba, incapace la sera, e l'agonia sempre più viva. Viva!